ombre affidano al silenzio le proprie emozioni, le parole, le passioni, i ricordi che nessuno vuole avere. Un uomo li afferra gridando e tutto risuona come nuovo in un ambiente deviato e disperso dalle paure di ogni cosa diversa. E non dirmi proprio ora che tutto quello in cui credevo si è perso dentro gli anni e in fondo non è mai esistito, lo sai. Amore mio, devi seguire la rotta del cuore, non usare come un alibi la realtà sbagliata in cui viviamo. Così ti porterò lontano dentro alle parole e alle paure che ho mischiato insieme.